primo dato in assoluto da contestualizzare il tutto è che la Bolivia attraversa un paese che attraversa una crisi durissima, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista politico. La crisi economica è molto forte e si manifesta anche con la perdita di consenso dell'attuale presidente, ovvero sia Luis Arce, del Movimento al Socialismo, che è lo stesso partito di Evo Morales, che ha governato per quasi 15 anni e che poi fu vittima, come ricorderà qualcuno, nel 2019 di una sorta di golpe, questo sì, che la portò poi a un lungo esilio. Questo è l'origine, poi tra parentesi, anche il secondo problema, ovvero sia quello del conflitto interno proprio al Movimento al Socialismo, ovvero sia del partito di governo. Ritornando alla crisi economica, Luis Arce effettivamente è considerato il padre di una performance economica che da quando è al governo sicuramente ha avuto dei picchi molto alti, però ultimamente si è dal 2023, ovvero sia dall'anno scorso, si è avuto una crisi economica molto forte, dovuta soprattutto alla caduta del livello di produzione del gas naturale. Ricordo che la Bolivia è uno dei paesi insomma che su questo è produttore, uno dei più importanti dell'area e anche del mondo. Ecco, nel 2006 c'era stata la nazionalizzazione degli idrocarburi, proprio portata avanti dalla presidenza di Evo Morales, e però ecco adesso con questa carenza, appunto con la caduta del livello di produzione, si è avuto una crisi che riguarda un po' tutti i combustibili. Il governo di Arce, solo per dirne una, ogni anno spende in sussidi per i combustibili per non bloccare completamente il paese a prezzi altissimi, e quindi sicuramente è una delle voci che pesa di più sul governo e sull'economia del paese. Questa cosa ovviamente ha portato a una crisi anche speculativa riguardo a una scarsità di dollari su 13 cambi in mercato parallelo, quindi una crisi economica sicuramente importante, che ha portato poi anche a una perdita di consenso notevole e rapidissima da parte del governo di Luis Arce. Per cui in questo contesto, in previsione delle elezioni del 2025, elezioni presidenziali dell'anno prossimo, ovviamente questo conflitto fra Luis Arce e Evo Morales, ovvero sia il padre proprio del Movimento al Socialismo, recentemente ha creato un'aspra battaglia politica appunto in previsione delle elezioni, e una divisione all'interno del MAS che ha portato anche una scissione della bancada dell'Assemblea Nazionale, ovvero sia al gruppo del MAS in Parlamento. Questa divisione interna al MAS ha fatto sì che si creasse questa situazione. Se vogliamo, i dubbi sono più che giustificati rispetto a questo golpe, nel senso è un golpe un po' tutto interno, tra parentesi anche si è parlato di un autogolpe e ci sono tutti gli estremi. Non si è mai visto che in un golpe militare le comunicazioni del palazzo non vengano, il palazzo dove c'è il governo, non vengono interrotte, che non venga presa la TV statale, delle stazioni radio. In Plaza Murillo, dove c'è appunto il Palacio Quemado, che era la sede del governo, adesso è una sede più che altro di tipo simbolico, tutte le televisioni hanno trasmesso in diretta quello che stava accadendo. Solitamente questa non è una tipicità, è un'assurdità, perché chi fa un golpe per rovesciare il potere, le prime cose che fa, le cose fondamentali nell'ABC del golpismo, c'è proprio quello di prendersi mezzi di comunicazione, insomma, per tagliare e gestire la comunicazione di ciò che sta accadendo. Sì, anche perché la Bolivia, in termini di golpe, insomma, qualche esperienza ce l'hanno. Ecco. Ce ne sono stati quasi 200 dalla sua indipendenza, quindi dal 1821, quindi voglio dire, se ne intendono abbastanza. L'esercito è sicuramente uno di quelli che, con le sue correnti interne, con le sue divisioni, a seconda dei periodi storici che ha attraversato, comunque è stato protagonista di un sinnumero, direbbero là dall'altra parte della pozzanghera atlantica, un sinnumero di golpe di Stato e ex media, insomma, di cose molto simili. Adesso ci sono ormai da molto tempo dei blocchi di strada, manifestazioni negli ultimi mesi, è ritornata a galla di nuovo l'inflazione in maniera molto forte, e soprattutto questo ha creato questa situazione un po' da necessità da parte del presidente in carica, che sostiene di star subendo una sorta di golpe blando da parte di Evo Morales, di rimpinguare un po' il suo consenso rispetto per l'opinione pubblica che in maniera repentina le ha voltato la, gli ha voltato la faccia proprio a causa di questa crisi abbastanza repentina ma molto forte che sta subendo per l'appunto il, la Bolivia. Quindi una situazione sicuramente convulsa, diciamo così, ne vedremo poi gli sviluppi nei prossimi tempi. Certo, questo tipo di autogolpe sicuramente dà una certa autonomia, no, nella, che sta in, per un presidente che stava, che insomma gravitava un po' in riserva, no, di consenso. Bisogna vedere per quanto tempo, perché sicuramente non se la son bevuta proprio tutti, insomma, che questo possa essere un golpe vero e proprio.